Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Benvenuto da Maurizio Melis. C'è un dato sorprendente, o almeno così mi pare, da cui partire per la discussione di stasera. Il dato è questo: il secondo consumatore di energia elettrica del paese è Telecom. La compagnia di telecomunicazioni consuma, pensate, più delle acciaierie, questo solo per fare un esempio, finendo per pagare una bolletta da svariate centinaia di milioni di euro l'anno. Il motivo di un così elevato consumo elettrico è da attribuirsi all'infrastruttura distribuita dell'operatore telefonico, formata da migliaia di stazioni di ripetizione, installazioni sparse per il paese e moltiplicatisi tra l'altro molto rapidamente sotto la spinta di un mercato in rapida espansione. Ecco, in questi casi analoghe problematiche si riscontrano per le reti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica. La volontà di fare efficienza energetica si scontra con la dispersione geografica e la necessità di mantenere sempre attivo un servizio che è fondamentale. Insomma, non si può dire fermo tutto per un mese per fare manutenzione e nemmeno per fare efficienza energetica. Che fare dunque? La soluzione chiama decisamente in campo l'informatica. Ne parliamo quindi con Diego Ragazzi, esperto di risparmio energetico del Cefriel, il centro di ricerca e formazione nel settore informatico del Politecnico di Milano. Buonasera Ragazzi. Buonasera a tutti. Dunque, ragazzi, abbiamo detto che siamo davanti a strutture estremamente frammentate e che non possono essere fermate per fare manutenzione. Qual è allora la strategia in questi casi? Sì, esattamente, si tratta di strutture estremamente complesse che forniscono però i servizi di base per la nostra società, quindi stiamo parlando di gas, elettricità e comunicazioni. La strategia in questo caso prevede diversi interventi che devono tener conto di quanto esiste già oggi e che sarebbe ovviamente impossibile rimpiazzare almeno sul breve periodo. Mm-hmm. Quindi la strategia deve prevedere il controllo in maniera razionale di quanto oggi esiste. Certo, quindi che tipo di interventi si fa? Adesso poi magari facciamo l'esempio specifico delle telecomunicazioni, ma si tratta intanto di dotare di sensori, ecco, insomma, tutte queste stazioni. Esattamente, seguendo una nota frase attribuita a Lord Kelvin, il padre della termodinamica, se non puoi misurarlo, non lo puoi migliorare. Quindi la prima cosa da fare è misurare esattamente come si comporta il sistema. Per far questo, ovviamente, occorre mettere in campo un'infrastruttura basata su sensori e comunicazione di segnali rilevati. Tra l'altro mi pare che in molti casi queste infrastrutture siano già dotate in qualche modo di una sensoristica, in alcuni casi non è nemmeno necessario andare a piazzare fisicamente il sensore. Esatto, in molti casi noi abbiamo riscontrato che nella pratica esistono già dei sensori che sono stati installati in vari periodi e per rispondere a diverse esigenze che possono utilmente essere riutilizzati a questo scopo. A scopo di fare efficienza energetica, esattamente. Certo. Ecco, voi siete intervenuti, se non sbaglio, proprio sulla rete Telecom. Sì, questo è uno dei casi di studio che presento spesso nei miei interventi e perché è anche uno dei più interessanti. Allora, in questo caso abbiamo riscontrato, come spesso succede in queste grandi infrastrutture, che esistono diversi margini di risparmio a vari livelli. Ad esempio, una delle cose che spesso non si sanno è che le grandi reti di telecomunicazione si basano su apparati di rete che funzionano 24 ore su 24. Certo. Questi apparati di rete però sono grandemente sovradimensionati e vengono tenuti accesi per tutto il tempo, anche quando non c'è nessuna telefonata in corso. Si parla di always on, cioè si dice non sapendo né leggere né scrivere, teniamo acceso tutto. Esattamente, una filosofia che nel nostro settore ha imperato per diversi anni e che ultimamente è un po' messa in discussione. Allora, in questo caso noi avevamo fatto una valutazione sulla base di dati misurati proprio anche in aree metropolitane, quindi con un traffico estremamente elevato, e abbiamo visto che oltre il 30% dell'energia consumata da questi apparati è in realtà consumata a fronte di nessun traffico da gestire. Quindi diciamo che una prima possibilità consiste nello spegnere alcuni ripetitori, per esempio? Esattamente, quindi usare soltanto le risorse che servono nel momento in cui servono. Ovviamente non si potrà raggiungere la meta del risparmio del 30%, certo, che è un limite ideale, perché ci sono una serie di vincoli da rispettare, però noi stimiamo che almeno un 10-15% di risparmio sulla bolletta elettrica potrebbe essere ottenuto in questo modo. E qui è fondamentale l'informatica, perché la complessità è molto elevata, quindi decidere cosa accendere, cosa spegnere, non dico istante per istante, ma quasi, diventa impossibile umanamente. Ecco, poi c'è un altro tipo di intervento che voi avete ipotizzato, che è sulla singola stazione, cioè per rendere più efficiente di per sé la singola stazione. Sì, esistono diversi interventi a questo riguardo. Un esempio è intervenire sul sistema di condizionamento. Anche in questo caso bisogna tenere presente che dovunque ci sono apparati elettronici in funzionamento occorre mantenere un certo livello di temperatura. Allora, intervenendo sul sistema di condizionamento e controllandolo adeguatamente, anche in questo caso abbiamo stimato che si possano raggiungere risparmi sull'intera rete dell'ordine del 3-5%. Va bene, grazie Diego Ragazzi. Grazie a voi, buona serata. Bene, anche per questa sera è tutto. Mr. Kilowatt torna lunedì, parleremo di risparmio energetico nell'industria agroalimentare. Buona serata a tutti e buon weekend.